avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux Oggi. Bail. Azzarderemo una delle nostre ardite quanto ardimentose analisi generazionali. Abbiamo fatto qualche settimana fa, qualche giorno fa, parlando dei giovani scendendo nelle piazze. Oggi abbiamo qualcosa da dire ancora su degli esiti generazionali. Ho notato, ma soltanto per esperienza indiretta, quindi per racconto degli amici, per osservazioni o per filoni letterari o emotivi che circolano comunque in questo periodo nei cinema italiani, che esiste un grande bottino che stanno raccogliendo oggi gli uomini di età media dai 55-65 anni, che è l'Edipo accumulato dalle trentenni. Adesso mi aspetteranno già sotto all'uscita della radio con i forconi in mano, ma considerate un attimo una cosa. Un uomo dai 55-65 anni era fino a una generazione fa considerato, non voglio dire proprio un vecchio da buttare via, da buttare al macero, una persona probabilmente ancora efficiente, agli sgoccioli della proprio iter professionale, una persona che comunque aveva dato molto alla società, fascia di età in cui io sto transitando infelicemente, quindi non sto parlando di qualcosa molto lontano o non sto sbeffeggiando e ridendo persone di cui non conosco, ahimè, l'angoscia esistenziale. Beh, dicevo, fra i tanti problemi che oggi invece hanno questi signori, che sono infiniti, sono quelli che da sempre hanno avuto gli uomini che sulle spalle sono portate la responsabilità di una vita, di una famiglia, di una professione, dei propri problemi, dei problemi altrui, della società, delle mutazioni, degli acciacchi fisici, dei problemi esistenziali, via dicendo, si aggiunge comunque un minimo tiepido lenimento. Il fatto che ancora per le trentenni, le trentacinquenni, fino al liminare delle quarantenni, sono considerati uomini appetibili. Questo me lo trovo inspiegabile. Perché una trentenne dovrebbe andare con un sessantenne? Perché cosa può dargli, al di là il fatto di una certa sicurezza o di un appoggio comunque che le manca? Considerando che poi le donne di questa fascia di età che vanno alla caccia disperata di vecchi in odore di dentiere e pannolone, sono donne che in realtà sono professionalmente realizzate, esteticamente più che accettabili, a volte anche perfino fortemente seducenti. Due sono le cose: o esiste una sorta di vuoto generazionale per cui i loro coetanei o sono scomparsi o sono passati a miglior scelta emozionale, erotico-sessuale, o sono impegnati, quindi naturalmente c'è stata una accelerazione di produzione di femmine piuttosto che di maschi e si trovano sprovviste di maschi. O in effetti qualcosa è avvenuto nel loro passato familiare, per cui i loro genitori, che sono gli stessi, dovrebbero aver dato loro i lumi dell'intrepida osservazione della società e della caduta di ogni pregiudizio, gli mancano talmente tanto che l'Edipo accumulato da queste fanciulle in realtà diventa un bottino lussuosissimo per queste signore. Ecco, io ve la pongo esattamente così. Perché oggi c'è una gran fortuna erotico, sentimentale, sessuale da parte di uomini di età molto avanzata. Ma al di là del loro potere d'acquisto, al di là del loro fascino oggettivo, al di là del fatto che occupino dei posti di rilievo della società, perché grazie, un sessantenne potente, politico, sciacallo d'industria, ricco, è logico che sia anche appetibile, è anche un buon investimento. Ma anche dei perfetti morti di fame, degli squattrinati, dei nulla facenti, degli idioti radicali, sono circondati da donne bellissime che hanno minimo 30-40 anni meno di loro. Sembra impossibile, eppure è così. Io ve la pongo come mia osservazione. Confortatemi, supportatemi, o perlomeno datemi occasione di essere una volta tanto contraddetto. 800240024. Ti ricordi Rosina da piccola? Papo ti portava sulle spalle, eri sempre così silenziosa. A che pensavi? Mi stava da sul cazzo. Luca, come stai? Ero venuto a trovare Rosa. Era uscita con te? No, come no. Ma se non esce con Luca, con chi esce, scusa? Ma che ne so? Non ci posso credere che ti sei messa con sto scimpanzé. Luca! Vabbè, ma state zitto. Quando eravamo figli noi, i figli non contavano un cazzo. Pure che siamo genitori, non contano un cazzo i genitori. La ruota. Sono passata davanti a scuola di Rosa e l'ho vista andare via con un ragazzo. È di colore. Tu devi essere Armando. No, papà, lui è Armando. Questo è un trailer che capita di vedere molto spesso nella televisione, che accompagna il panettone e il ruttino post-prandiale. Ci è un po' entrato nelle orecchie, tanto sono dovuto andare a capire, a vedere cosa ci fosse dietro. È un film di Sergio Castellitto, scritto dalla moglie Margaret Mazzantini, una felice coppia del cinema italiano, della letteratura italiana e via dicendo, che ha prodotto un film che è un profondo atto di autocoscienza di una generazione. Una coppia di coniugi di media età, avranno sui 40 anni, 45 anni, perfettamente inseriti nella società, architetto e psicologa lei, architetto lui e psicologa lei, perfettamente in linea con il pensiero più avanzato, con una figlia minorenne, carina, perfettamente anche lei adeguata ai modelli estetici, etici, esistenziali più in voga. A un certo punto nella loro vita accade qualcosa di singolare. Capiscono che la figlia, che si è lasciata col fidanzato, ha qualcosa che non va. All'inizio temono che si sia messa con un suo compagnuccio di scuola di colore e improvvisamente già cominciano a crollare alcune loro certezze rispetto all'uguaglianza, alla caduta di ogni pregiudizio. Però già questa cosa potrebbe forse andare. Io il film non l'ho visto e non è che voglio improvvisare, lo confesso candidamente, lo andrò probabilmente a vedere, ma mi ha molto solleticato l'idea che è un tormentone comunque di questi giorni. Beh, già erano pronti a qualcosa che richiamasse comunque alti modelli di intrepida caduta di ogni pregiudizio, ma in realtà la realtà è che la figlia sarà innamorata di un uomo che aveva 50 anni più di lei, sarà innamorata di un vecchio, ma un vecchio vero, un vecchio quelli di una volta, con la giacchetta di tweed, senza cremine, senza corroboranti, senza capelli tinti, un normale vecchio. Non un vecchio rifatto, un vecchio finto, i finti vecchi che vediamo continuamente sopravvivere in televisione, un vero vecchio. E lì sorge il problema, lì cade veramente improvvisamente ogni supporto ideologico, ogni certezza esistenziale, ogni cultura corroborata da anni di studi di libri, da confronti, da autocoscienze. No, il vecchio non lo volevano in casa, il vecchio è qualcosa che non riescono a concepire, non è un finto vecchio. Guardate, noi siamo circondati da finti vecchi, da vecchi restaurati, da giovani che in realtà mascherano sotto una presunta giovinezza una senescenza ai limiti del marciume. Ma questo è un vero vecchio, un candido e antico vecchio. Marcello, buongiorno. Ah, buongiorno, senta, intanto io prima di complimentarmi con lei per l'arguzia e l'interesse di quello che discute ogni io invece volta. Mi complimento con lei perché vedo 65 anni. Senta, ma guardi, in realtà le generazioni si sono trasformate tantissimo, per cui realmente a 65 anni il tempo non è quello di mia nonna, io gioco ancora a pallone, pensi un po' e mi si viene scorrendo. Sì, non ce la senti di dare del vecchio a un 65enne, diciamo. No, ma sai, è un fatto anche mentale. Poi io da docente universitario, quale sono, quindi sempre a contatto con i giovani, le posso portare questa modesta esperienza, che non pretendo ovviamente che sia condivisa né da lei né da altri, però le dico la mia esperienza. Purtroppo da circa 25 anni, 30 anni a questa parte, diciamo, l'approccio, cioè le caratteristiche della società si sono modificate negativamente, hanno avuto un effetto negativo fondamentalmente sul maschio in Italia. Da una parte le ragazze hanno conosciuto un momento di aggressività che ancora si sta producendo, dall'altra il maschio si è ritratto perché ha perduto definitivamente quelli che erano le caratteristiche che gli erano falsamente attribuite. Morale, i maschi sono molto poco interessanti per le donne di 30, 35, 40 anni che hanno necessariamente per loro costituzione una maturità interiore molto più profonda. Quindi lei conclude che noi vecchietti siamo ancora rimasti come una specie in via d'estinzione, quindi vengono ad attingere alle stanche e flaccide carni. Interessanti, nella nostra generazione c'è ancora, che le posso dire, una capacità di esprimere una cultura. Se io ascolto lei, io sento lei, io sono, le farei un mezzo busto al pincio. Sì, ma lei non è una ragazza di 35 anni, è un professore universitario di 65 anni. Sì, però io apprezzo la qualità della cultura, la capacità dell'espressione. Lei è un sì, vabbè, è un von Eschenbach che cerca Tazio, ma non è questa esattamente la situazione. Ascolti Nicoletti, noi abbiamo un vocabolario, un'ampiezza di vocabolario. Sì, ma un giovane medio non conosce. Ma quando si va a stringere, non è che col vocabolario si mette il bollito nella pentola. No, guardi, no, non so. non mi dispiace, e le parla uno che ovviamente... Beh, lei come professore universitario avrà studentesse... No, no, io faccio il mio lavoro, ma non ho alcun contatto di nessun tipo, sia molto chiaro questo. No, no. Sono solo un osservatore, le dico che le donne sono affascinate da un qualche cosa che non... Va bene, lei ha dato intanto il suo primo tassello. Dal punto di vista del soggetto che andavamo a esaminare, dice: noi manteniamo ancora una sorta di fascino che non esiste più nei coetanei delle 35 anni che come lupe nella steppa vanno ululando alla ricerca del vecchietto. Carla! Pronti? Sono la Carla. Lei sta con un vecchio? No, no, io ho un marito che ha 55 anni. E lei quanti ne ha? Io ne ho stesso, 55 anni. Vabbè, sei coetanei, allora che volete? Siamo coetanei. Però lui ha un aspetto vecchissimo, perché... E quindi andrà con delle ragazzine? Il suo fascino, allora, il suo fascino sa qual è? È che è un uomo che, nonostante il suo aspetto vecchio... No, intanto scusi, mentre parla lei un attimo, stanno stabilendo un collegamento con un posto che è un po' difficile da raggiungere, mentre stanno provando a fare questo collegamento. Allora, continuiamo, Carla, mi fanno dei segnali dalla regia, prego. Posso parlare? Sì, sì, no, perché stanno tentando una cosa che è un po' complicata. Eccomi. Allora, io dico, il mio marito ha 55 anni, non è bello, li dimostra tutti, anche di più, nonostante tutto ha un fascino incredibile con le donne giovani. Io ho scoperto che il suo fascino è dato dalla simpatia, è un uomo simpatico, allegro, e questo piace. Io adesso sto segnandomi su un foglio quelle che sono le caratteristiche del vecchio arzillo, a cui forse appartengo anche io, che secondo voi piacciono alle donne. Il professore prima ha detto che sappiamo parlare bene, sanno parlare bene, hanno cultura, lei ci sono simpatici, va bene, può essere, ma degli ottimi compagni di conversazione, ma non degli amanti. Potrebbe avere anche degli amanti, potrebbe venire, perché purtroppo mi sono accorta che ci sono donne che potrebbero addirittura arrivare all'intima d'azione. All'intimo. Ma ha trovato tracce evidenti? Beh, sì, tipo? Sì, tipo che me ne sono accorta. Beh, da cosa? Me ne sono accorta. No, dia degli elementi utili alle sue colleghe, scusi, se no che trasmissione di servizio è? Da microspie. No, non ci giri intorno. Ha visto segni evidenti sulle flaccide carni? Ha trovato capelli? Ha trovato tracce indelebili? Come ha fatto? Allora, la prima cosa, chiaramente, il consorte non rende sul pezzo. Non rende sul pezzo. Vabbè, quella è anche l'età, può essere. Ma non rende, perché probabilmente lo vedi distratto. Le ragazze giovani attirano di più. Sono punti di vista. Vabbè, lei comunque lo vedo molto fiera anche di questo, quindi nella sua fierezza trova lenimento e forse soddisfazione da qualche piccolo cedimento carnale del suo 55 anni. Ecco, abbiamo stabilito il collegamento. Barbara Alberti. Nicoletti! Oh, eccola, l'abbiamo beccata dal faro di Finisterre, la guardiana del faro, Barbara Alberti, che questa mattina ci dedica un po' dello spazio a disposizione, se la capitaneria di porto ce lo permette. Albert, come sta? Benissimo, come state giù in terra? Ha passato un bel Natale in mezzo alle onde dell'oceano. Sì, coi gabbiani, benissimo. Senta, Albert, ci serviva lei questa mattina, perché... Sento che fra le molte messaggi in bottiglia che arrivano, signore che le scrivono nel suo faro isolato nell'oceano, ci sono tante che sono ragazze perfettamente o donne perfettamente in linea con tutte le attese possibili estetico, erotico, sentimentali, ma si accoppiano con dei vecchi. Lei come se lo spiega? Dunque, tanto per cominciare, caro Nicoletti, noi donne ci raccattiamo tutti, perché noi abbiamo una immaginazione straordinaria. Questo è il grande vantaggio di essere femmine, perché essere donne è proprio un lungo gioco, una lunga infanzia. Non so perché passiamo per essere pratiche, sì, siamo pratiche nella scienza del sogno, però senti, io non sono tanto d'accordo su questo fatto dell'Edipo accumulato. È una mia ipotesi, io le dico, ma è la cosa più corrente che si dice, però io credo una cosa invece, che a me da giovane piacevano moltissimo i vecchi, e quindi crollerebbe, dato che era molti anni fa, era un altro tempo. tempo crollerebbe un po' tutta la storia che oggi i maschi non sono più. Io mi ricordo che ero molto attratta dai vecchi. E poi la zona di Umberti, prima, di Alberti, è terra umbra in cui non mancavano il tempo i maschi, non era proprio... Appunto, voglio dire, c'era... E invece niente, mi piacevano i vecchi, ma non i vecchi importanti, come ha detto prima lei, cioè, peggio ridotti meglio era. Vecchi non bastavano, perché c'erano pure disgraziati. E mi ricordo che a 19 anni mi sono innamorata di uno di 65, che appunto era un vero vecchio, uno che dimostrava 80, cioè non appunto questi di oggi, come diceva lei, in jeans, plastificati e via dicendo. Ed era uno che aveva mancato tutto. E questo fatto mi sembrava un segno sicuro di grandezza. E gli dico, cioè, non è più che Edipo, tu scavalchi tuo padre attraverso il vecchio, vai oltre. A me piaceva proprio fisicamente, mi piaceva che la pellina brutta, cadente, sentivo una promessa di tenerezza, di abbandono, e poi c'è di alleanza con qualcosa di molto lontano, proprio andare in un'altra sponda. E poi cosa piace a una donna? Quindi scavallare il proprio tempo, con il vecchio si scavalla il proprio tempo. Sì, esattamente, si va oltre, si ha l'illusione di essere protetti, di trovare questa indulgenza infinita da padre, da maestro, cioè colui che in realtà non è così, il vecchio cerca una badante. No, vecchio non solo cerca la badante, ma spessissimo ti trovi con dei bambini di 70 anni che non hanno, che hanno bisogno loro di sicurezza e la vogliono da te, perché sono avidi di nutrici questi uomini di età, e tante volte si vendicano anche della tua gioventù che loro sfugge. Io ho avuto con questo vecchio allora un'esperienza terribile, perché mi ha frantumato. Sentiamo un attimo Livia Alberti, si chiama Livia. Livia, buongiorno. No, mi chiamo Luisa. Ah, Luisa? Ah, beh, mi hanno scritto Livia. No, io volevo un attimo guardare, non dico rovesciare la situazione, ma comunque guardarla da un altro punto di vista. Secondo me sono gli uomini che più invecchiano e più cercano le donne giovani. E questo lo vedo praticamente, non dico tutti i giorni, ma quasi, ma quando avevo degli amici più o meno della mia età o qualche anno più vecchi, sì, vedevi che, come si dice, cioè ti dicevano, ma sai, io a me saresti piaciuta così e colà. Adesso che loro hanno 60 anni, 60, e io ne ho 55, mi dicono, sai, saresti un po' passatina, cioè... è l'uomo che, cioè, io adesso che ho 55 anni, se tanto mi dà tanto, dovrei averne uno di 75, anche 90, anche se, 90, se, esatto, questo, ecco, se questo, per cui voglio, questo volevo dire che gli uomini più invecchiano più cercano le donne giovani, sì, boh, non... questo vabbè, possiamo dire abbastanza fisiologico, la carne fresca è meglio della carne rugosa, ma allora non sono sempre le trentenni che cercano il vecchio, sono i vecchi che si mettono pronti a ricevere, sì, ma queste ecco, acconsentono, questa è la cosa che stiamo cercando di capire. I vecchi sono sempre andati a caccia di ragazze più giovani, è biblica, capito, vedere Susanna tra i vecchioni, sono immagini che appartengono comunque alla nostra storia profonda, ma oggi il fatto è che non esiste più nessun tipo di né dico pregiudizio, comunque la ragazza che va con il vecchio lo fa nascostamente, capisce che comunque è oggetto di un vizio, il vecchio di cui parlava l'Alberti di qualche anno fa comunque aveva un suo gioco di affermazione del possesso, questa ragazza che ne era affascinata, e poi una visione anche molto letteraria. Oggi è quasi la regola, oggi la trentenne, 35enne non ha nessuno scrupolo andare a cercare l'uomo molto molto molto più grande di lei. Sì, salvo poi quando è stanca di dirgli se è troppo vecchio me ne vado con uno più giovane. Questo glielo sto dicendo per esperienza familiare, quindi... Cosa le è successo in famiglia? Di un fratello che ha sposato una ragazza di 30 anni, 25 italiana? Anni. Italiana? Cosa? Italiana? No. Dell'est? Beh, sei andata a cercare. No, adesso non ho il tempo per spiegare. No, ma è un'altra fattispecie. Quella è un contratto fantastico fra donne bellissime e uomini che ormai hanno abbandonato ogni speranza di vita. Loro gli danno la vita all'uomo e l'uomo in cambio le mantiene. Mi sembra giusto. Non è proprio così, è il contrario. Comunque, voglio dire. No, come il contrario? Scusi. Non posso spiegare, è troppo lunga la cosa. Sì, ma l'ha voluta lui la ragazza bella, bionda e fresca. Per quale ragione dovrebbe andare con un uomo ormai passato, se non per avere una giusta finalmente sistemazione economica. Non era così. E com'era? No, me lo dica. Lei stava molto bene, quindi voglio dire, era non ricca. È sempre, però adesso comincia a rimproverargli che è vecchio, ha capito, quindi lo so. Voglio dire, è un capriccio secondo me, insomma, dai, i pareri lo possono. Noi sappiamo tanti. Che abbiamo quello che nell'Umbria l'Alberti capirà chiamano il mal dell'agnello, che prende all'uomo di una certa età, e quindi è logico che a un certo punto comincino, le attese cominciano a essere tradite. Barbara Alberti. No, ma scusi Nicolosi, ma che è il mal dell'agnello? Non lo posso dire alla radio. Non lo posso dire alla radio. È una indecente rima che mette in rapporto l'aumentare della pancia con altre defaianze. Però è una cosa umbra, lei dovrebbe capire. C'ho una lacuna gravissima. Ma no, voglio dire, la signora dice che no, secondo me un corrersi dietro. C'è la domanda e c'è l'offerta, perché una ragazza si sente, cioè è vero, dice, dalla vita, dice lei, ma anche se la prende, perché il vecchio valorizza la tua gioventù, tu non ti sentirai mai così giovane. E poi questo fatto di essere artefice del miracolo, cioè la rinascita del desiderio, dà alla ragazza una grandissima forza. Sì, perché la vera chiave, Alberti, al primo professore che ha chiamato ha detto: le donne vengono con noi uomini anziani perché abbiamo cultura e intelligenza. L'altra signora ha detto: vanno con mio marito perché è simpatico. Ma in realtà quello che veramente è il vero regalo che fa la donna più giovane con l'uomo molto più anziano è di ridargli la sensazione che lo desideri fisicamente, proprio quello. Perché l'intelligenza uno la può aver sempre, la simpatia può averla sempre. Ma in realtà sentirsi desiderato in un momento in cui uno ha pensato che il desiderio da parte di una donna è qualcosa che non appartiene più alla tua esperienza. Questo è il vero regalo, questo è lo sconvolgimento totale dell'esistenza. Per lei essere artefice del miracolo è una grandissima cosa. Io poi ricordo anche un altro dettaglio. Nell'attrazione che provavo per questo vecchio c'era anche la promessa di una dolcezza anche erotica, quasi femminile. C'era anche un po' quasi, io ho provato questo in seguito quando mi sono innamorata di un omosessuale. Intanto c'era questa idea inebriante di calpestare un territorio che non ti spetta. L'idea della trasgressione, della clandestinità in qualche maniera, che è molto importante in amore. E poi c'era questo fatto di un amore più dolce, più forse più morboso sicuramente. Però beh, certo, non proprio, dietro la pacatezza esiste un abisso di morbosità rispetto alla fretta, certo. All'intraprendenza taurina che tutto travolge. Esatto, l'intraprendenza taurina, esattamente, anche la difesa era quello. Sentiamo Andrea. Andrea. Ah, buongiorno. Eccomi. No, io volevo dire due o tre cose. La prima, spero di essere chiaro e conciso, sul libro della Mazzantini, sul film della Mazzantini che ho visto pochi giorni fa. Io devo dire che non mi piace la Mazzantini e mi sono abbastanza una cozzaglia di luoghi comuni e soprattutto molto negativi i tre soggetti che erano i famosi punto padri, perché proprio veramente degli, usiamo la parola idioti, che si meritano casomai di avere dei figli. Beh, però ne conosco tanti di idioti come quelli rappresentati vero, nel film. Vero, però voglio dire, diciamo, fanno parte dell'humus che oggi fa opinione nella nostra società, perché sono i giornalisti e gli opinionisti e quelli che scrivono libri, che partecipano a dibattiti, sono un po' loro. Sicuramente, però voglio dire, sono quelli che generano sicuramente. E il terzo direi che era Fettellito, che era quindi quello che già era più costruito, eccetera. Comunque sia, dimostrava delle, a mio giudizio, non sbaglierò io, forse io mi considero fortunato, o lo sono stato, delle limitazioni notevoli in quello, perché se quello che lui racconta alla figlia, o ricorda della figlia a 30 anni, sono quello che dice nel film, capisco che la figlia alla fine gli risponda male, come dice, pesantemente. Quindi io credo che già lì, se questo è lo spaccato di quello che sì, oggi... Io no, scusi, non la voglio interrompere. Allora, abbia pazienza. Fermiamoci un istante, do la linea alle informazioni della borsa e termina con tranquillità il suo discorso. No, sembra che voglio segarla, ma non è esattamente così. A tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Che cosa c'ha Armando che non va? Lo chiede a te. Forza, ditelo! Sputate il fiele! Rosa, ha 50 anni più di te. Come siete minuscoli. Minuscoli, Rosa, consentici di avere almeno qualche perplessità, ecco. No! No! Non ve lo permetto! Io a Capodanno ho pianto! Perché la parrucchiera t'aveva sbagliato i colpi di sole, Rosa. Ti ha fatto comodo crederci! Comodo, insomma. 150 euro di parrucchiere, non lo so. Prendetemi i parrucchieri. Cosa c'è? 800240024. Questo è un trailer tratto dalla bellezza del Somaro, un film di Sergio Castellitto scritto da Margaret Mazzantini, che ci ha dato lo spunto per l'argomento di questa mattina. Come mai oggi 55-65 anni hanno tanta fortuna con le ragazze molto più giovani di loro? Abbiamo capito nella prima parte della trasmissione che non è il solito luogo comune del vecchietto che insegue la fanciulla dalle tenere carni, ma è proprio una reale affezione, una vera ricerca. Oggi la protagonista del film di Castellitto, la Mazzantina, è una ragazza giovane, minorenne, è il paradosso di questo esempio che stiamo portando, ma una media classe di femmine affascinanti, realizzate esistenzialmente, indipendenti, belle, dalla libertà totale delle possibilità di esprimere le loro azioni, la loro sensualità e via dicendo, cercano uomini che in realtà andrebbero bene ai giardinetti con il pannolone, con i bambini o il cagnolino al guinzaglio. Perché ci domandiamo questo? Abbiamo interrotto nella prima parte Andrea, che ha visto il film di Castellitto della Mazzantini, e però secondo lui individuava dei paradossi troppo esasperati. Andrea, ho riassunto bene il suo pensiero? Sì, in parte questo, e in seconda battuta il fatto che secondo me sembrava proprio che il rapporto fosse liquidato, cioè c'era una certa banalità a mio giudizio nelle valutazioni da parte dei genitori, per cui era quasi comprensibile che la figlia dovesse avere reazioni di questo genere. Sì, cioè, il rapporto con i figli va costruito dal primo giorno e i padri devono fare i padri, non sono amici. Quindi l'errore. Ho capito, non è che accade questo realmente. Non comincia a 50 anni. Ho capito, Andrea, ma lei non può dare lezioni al mondo. Scusi, esiste anche. Esistono. Scusi, ma si guarda intorno. Esistono dei problemi enormi nella gestione dei figli oggi. Ma lei ha figli in età minorenne? Ho un figlio di 21 anni, ho nipoti. Ma ha mai dato un'occhiata, visto il suo figlio sarà perfetto, ai compagni di scuola di suo figlio, ma ha visto i genitori dei compagni di scuola di suo figlio? Ma non so, mi sembra che anzi sia molto... Scusi, ma secondo lei il problema dei genitori, visto che lei fa una valutazione più ampia, da cosa nasce? Non mi dica da fattori di censo o d'altro, perché i problemi più grossi ce li hanno i figli, casomai, di genitori benestanti. Sì, nasce dal fatto che il mestiere di genitore, allora, un mestiere che oggi che una volta stramandava di padre in figlio, a un certo punto c'è stata, perlomeno nel nostro paese, generalmente la società, una crasi, una rottura. A un certo punto i genitori e i figli non si sono passati il testimone, su questa maniera, se vuole arcaica, se vuole brutale, se vuole piena di difetti, comunque di gestire con responsabilità i figli. I genitori sono diventati gli amici dei figli. Da quando i genitori sono diventati gli amici dei figli, i figli hanno dato l'esito che mi sembra rappresentato in maniera sufficientemente realistica nel film di Castellitto. Questo dico, io non è che mi sono scandalizzato, ho rivisto in quella ragazza, in quei genitori, un'infinità di miei colleghi, ex colleghi, poi andrò anche più nel profondo, capito? Quindi non mi sembra una situazione così creata sulla luna, non lo so, poi lei ha il suo punto di vista, è chiaro che poi c'è il paradosso in un film, ma però forse ci dice meglio questo Sergio Castellitto. Castellitto, buongiorno. Buongiorno. Sei buongiorno entrato proprio nel caldo in cui discutevamo, sì, proprio del film. Mi piace molto questa conversazione, non ci dobbiamo dimenticare che questa è una commedia e quindi deve per forza, come dire, alzare il tiro. Certo, esaspera il paradosso, però è una realtà che conoscete, te e tua moglie la conoscete bene, perché basta guardarsi attorno, via. Certo, guardarsi attorno anche nella nostra casa, avendo quattro figli, da 19 a 4 anni abbiamo problemi dall'università alla materna noi. Io penso che invece quel paradosso fotografi molto bene la realtà. Io credo che Rosa, la piccola giovane protagonista del film, porti a casa il vecchietto, ma porti a casa un rimprovero in qualche misura, e nel senso è un segnale che vuole dare a questi genitori sgarzulilli, come li chiamo io, di ritornare a fare i genitori. A un certo punto chiede al padre: papà, deciditi a essere vecchio anche te, così almeno mi tranquillizzo. Glielo dice anche la moglie, dice basta fare il puer, comincia a fare il Senex, è il Senex di cui tua figlia ha bisogno. Insomma, mi sembra che poi in realtà il gioco della commedia, non ci scordiamo che questo film fa in innanzitutto ridere, e come dire, dentro la risata c'è tanta intelligenza, ovviamente, secondo me. E questi due genitori, in qualche misura così preoccupati della loro età, non si accorgono più della, come dire, della potenza dell'età di questa ragazzina, in qualche misura. E questa ragazzina mi sembra molto preoccupata innanzitutto di crescere il prima possibile per liberarsi. Sai, io vengo da una generazione che ha combattuto i padri padroni e sono diventato, malgré moi, un padre amico. Io non so chi ha fatto più danni oggi come oggi, ecco, questa è la sensazione. Però, Sergio, guarda, c'è anche una domanda ci dobbiamo fare, più o meno mi sembra che siamo coetanei. Qual è il punto di caduta per cui anche noi abbiamo diritto e liceità di pensare a noi stessi? Anche noi dobbiamo prenderci anche gli aspetti più succosi della nostra vita. Sì, beh, i figli abbiamo fatti, li manteniamo, cerchiamo di dargli tutto. Penso che vuoi dire, una volta essere genitori, diventare genitori era un destino. Oggi ho la sensazione che sia una scelta. Questo fa una differenza. Voglio fare un figlio. Una volta, come dire, le generazioni facevano i figli, come dire, generavano e portavano avanti il destino del mondo e delle loro famiglie. Oggi invece fare un figlio è, come dire, è, per fortuna, se vogliamo, per certi versi, una scelta condivisa o quant'altro. Parliamo anche, come dire, di classi che se lo possano permettere questo discorso. Questo fa la differenza in qualche modo. Però non ce la scordiamo la commedia, perché la commedia è quella che ci fa cogliere il senso delle cose. È la commedia umana, non la commedia di genere del film comico in sé. Però è bello che in effetti nella famiglia politicamente correttissima rappresentano tutti i punti di arrivo più sublimi in una certa mentalità terrazziera romana, diciamoci la verità. E il motivo dello scandalo diventa proprio il vecchietto. E poi siamo tutti circondati da vecchietti che si fanno ragazzine, però sono professori universitari, sono persone che comunque sono persone potenti, che rientrano nel gioco, e tutti questo lo tollerano. Invece un vecchio normale che abbia una storia d'amore con una ragazzina ci sembra contro natura ancora. E ci sembra contro natura perché ce lo possiamo permettere, se possiamo anche permetterci di attaccarlo, perché insomma forse la distinzione forse non è soltanto nella vecchiaia in sé, ma anche nella ricchezza della vecchiaia, no? Perché insomma, se c'hai quella pensioncina, se sei uno che se lo può permettere, forse fa la differenza in qualche modo. Diciamo che dietro l'angolo c'è sempre un indovina chi viene a cena. Una volta era un ragazzo nero che si presentava a casa di Spencer Tracy e Catherine Hepburn e come dire, disorientava quella famiglia, che era una famiglia di genitori illuminati, tutto sommato, di democratici, potremmo dire. E oggi davanti a questa coppia di genitori democratici si presenta quello che io credo e quello che secondo anche Margaret Mazzantini è il tabù di oggi. Che è vero, tabù, certo. Infatti sarebbero stati invecchiare. Quasi contenti che la storia d'amore fosse il suo compagnuccio di colore. Quello faceva figo, anzi. È molto chic averci un rasta per casa. Senti una cosa, ma voi quando avete scelto i cognomi e avete scelto Marina Sinibaldi, scusa se lo chiedo, ma è una cosa avete pensato a Marino Sinibaldi, il direttore di Radio 3? No, perché lui è un po' come modello di post-veltroniano buono, c'è tutto. Non credo proprio, anche perché il cognome nasce come cognome del marito, Marcello Sinibaldi. E poi Marina Sinibaldi, Marino, io penso che lui Marina, farà... Lei è Marina, in realtà è Marina Ginestroni in Sinibaldi. Ah, ecco, beh, allora Marino Sinibaldi può sentirsi fuori. Sentiamo un attimo Barbara Alberti, visto che abbiamo Castellitto in linea. Barbara Alberti dal Faro di Capo Finisterre. Ah, senta, sì, grazie Nicoletti, appunto sono contenta di essere Castellitto. Io non ho visto il film, però mi hanno detto una cosa che mi lascia molto curiosa, ovvero sia che si è scavalcato un po' nel film il fatto del sesso, ovvero sia che in verità è un flirt del tutto platonico tra la ragazzina e il vecchio. Come mai? Perché io ricordo appunto nel mio rapporto con questo vecchio la cosa che più mi incuriosiva era proprio il letto. Come mai invece questa cosa? Perché è una commedia? Non lo so. Beh, innanzitutto perché è una commedia, e comunque insomma il fatto di scavalcare il letto non vuol dire però non mettere in circolo la pericolosità. Noi abbiamo scelto Enzo Iannacci, non proprio Umberto D. Enzo Iannacci è una figura straordinaria, ma che c'ha anche una sua sensualità, in qualche misura anche un suo erotismo e quindi anche una sua pericolosità. Poi insomma non volevo calcare su quello, non mi sembrava molto più interessante. Essendo anche minorenne la ragazza, forse si è evitato, certo, proprio di entrare nel circolo del delitto penale, ecco. Sì, esatto, non ci scordiamo la commedia deve alludere, ma non è detto, non è necessario che debba spingere per forza un pedale piuttosto che un altro. Alberto avrebbe preferito una storia che andava non ben non oltre. Non avrebbe preferito nulla. Avrebbe dovuto essere più drammatica. E quindi non posso sapere. Sentiamo Luca, l'ascoltatore Luca. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dopo aver sentito molto della commedia, del film, tutto interessante, io volevo portare la realtà. Lei è un vecchio che sta con una ragazza? Come, scusi? Lei è un vecchio che sta con una ragazza giovane? Diciamo così, io ho 52 anni, lei ne ha 26. Più giovane di me lei, pensi un po', le do del vecchio. E siamo tutti e due italiani, siamo di Firenze, della stessa città, lei è nata qui, io sono emiliano, ma trasferito qui da 35 anni. E volevo dire, la quotidianità, le cose sono leggermente diverse. Sì, inizialmente... Però mi scusi Luca, voi siete un po' più nei canoni, qua è un 50 anni di differenza ci sono nei film di Castellitto, voi ce ne sono 25. Chiaramente deve essere reso quasi impossibile da riportare alla quotidianità, se no non si ride. Certo. Perché ovviamente dopo si comincia a guardare in casa, e io volevo solo dire che fino a 2 anni fa la gente si girava, ora non si gira più nessuno. Noi li chiamiamo colleghi, le coppie con queste grandi differenze d'età, alcune sono clandestine, devo dire la realtà, la mia è alla luce del sole, perché io non ho figli, non ho nipoti, quindi non sono sposato. Questa è una coppia a tutti gli effetti, senza nessun problema. Certamente, sono stato sposato 25 anni fa, da allora non ho più avuto un legame fisso, tranne questo che è terminato, cioè è diventato un legame fisso dopo una rincorsa da parte della mia, chiamiamola fidanzata, per mancanza di termini, durata 3 anni, non è che abbia ceduto facilmente. Quindi lei dà ragione alla mia tesi iniziale, che in realtà non sia la solita caccia dell'uomo verso la più giovane, ma c'è una reale attrazione e bisogno da parte di donne molto giovani di avere dei compagni di età molto più avanzata. Purtroppo sì, perché i miei amici, pochi rimasti sulla piazza, che non hanno figli e famiglia, più o meno non arrivano alle mie differenze spaventose di età, che naturalmente comportano qualche piccolo problema, anche se io porto meno i miei, ma anche lei porta troppo bene i suoi, a volte sembra mia figlia. Questa cosa all'inizio può essere imbarazzante, dopo diventa anche divertente, anche i miei amici, dicevo, non è che stiano con coetanee, le coetanee nostre tendono a evitarci, libere ma con famiglie sfasciate alle spalle, divorziate, 2 o 3 figli, nipoti, non cercano certamente un uomo maturo. Infatti quello, come avevo detto all'inizio Luca, è la fascia intermedia più interessante, non è tanto quella del film Mazzantini-Castellitto, che è una ragazzina che ancora vive in famiglia, è la donna trentenne, 35enne, che invece di andare a pescare tra i suoi coetanei che sono o separati o impegnati o gayizzati o disinteressati o psicanalizzati o distrutti o finiti, fanno a cercare i 55-65enni che sono uomini che tutti gli effetti in altri ambiti, in altre società, ormai dovrebbero essere persone che hanno messo la tranquillità come ragione esistenziale di sopportazione del loro tempo. Ci sentiamo solo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Forse le è mancata una figura guida. Certo, capapace. Gli unici no che Rosa si è sentita dire glieli ho detti io. Tu che padre sei? Sei un coetaneo, un amichetto. Ci sono uomini della mia età che hanno l'amante di 25 anni a disposizione. Io no! No, questo non lo puoi fare. Non è corretto. Cosa sono? Pillole blu. Io questo lo stendo. Adesso basta! Ti sospendo la paghetta! La paghetta no, le serve. Va bene, confermo la paghetta allora! Ma non è che vi drogate voi due? La classe mia è piena di genitori drogati. Ah, non sapevo. Tu non tocchi più una canna, papà. Stiamo parlando delle forti differenze d'età in un rapporto amoroso, ma con un'accezione molto legata alla contemporaneità. La ricerca da parte di donne molto più giovani di compagni d'età molto più avanzata. Lo spunto l'abbiamo preso dalla Bellezza del Somaro, film che è nelle sale in questi giorni, scritto da Margaret Mazzantini e diretto da Sergio Castellitto. Castellitto lo abbiamo in collegamento. Sergio, ho sentito alludere a delle pillole blu, quindi in realtà c'è questa velato spettro di una vigoria sessuale che attraverso artifici chimici può essere recuperata a qualsiasi età. Ah beh, decisamente, cioè, è un altro spartiacque fondamentale della nostra epoca. Poi sai, c'è da fare comunque, la trasmissione va in quella direzione, però è interessante verificare come sia diverso. Insomma, se una donna molto agita con un ragazzo, un uomo molto molto giovane, forse è patetica. È un gigolo, si dice subito, figuriamoci. Ecco. Allora la donna è patetica. Se l'uomo molto agé va con una ragazza molto giovane, o è un figo, è un grande figo, o è grave. E questa è già un'altra distinzione molto, molto interessante. Poi sai, l'uomo c'ha quella come dire, atavica, storica, tragicomica ansia da prestazione, per cui devi, c'è sempre il nostro gemello infedele che non sempre esatto. ci segue pari passo alla nostra esatto. volontà. Esatto, però non ci scordiamo che, come dire, nell'allusività della commedia c'è più verità che nel, come dire, che nel, nell'andare a, a togliere il, come dire, nell'andare a, a cercare il prurito di una soltanto di una sessualità. Io credo che non sia soltanto quello il problema. Sì, però è anche giusto dire che in realtà questi discorsi li facciamo con tranquillità da quando esiste il Viagra, cioè che l'uomo anziano non ha più nemmeno il problema della, esatto. della vigoria sessuale, che comunque la donna sa che a qualunque età l'uomo il minimo sindacale comunque può averlo. Il minimo sindacale se lo porta a casa, certo, esatto. Barbara Alberti, dal capo di Finisterre, dal faro di Capo Finisterre. Ma sento queste, queste donne, ti ricordo quella di prima che diceva gli uomini preferiscono i giovani, è vero, ma noi non dobbiamo, cioè le donne, l'unico consiglio che posso dare è di sfuggire i coetanei o con più vecchi, ma l'unica speranza per le vecchie sono i giovani, in ogni caso condannato anche questo socialmente. Ma cioè, ci sono anche tanti miti, voglio dire, sulla distruzione che la gioventù, che la giovane donna opera sul vecchio, no? Lei, Nicoletti, parla di adesso, ma comunque c'è questo mito universale che il professor Urrat dell'Angelo Azzurro impazzisce, certo, per Lola Lola impazzisce perché finisce a fare il verso del gallo, però succede poi che invece sono molto ragazze a cantare chicchirichì, cioè a fare l'Angelo Azzurro al contrario. Perché appunto sì, perché poi questi vecchi sono anche sadici, si permettono persino di maltrattarle, si permettono persino di tradirle a loro volta, visto che hanno una scelta. Loro che sono vecchi. E questa è una cosa che rientra nella sfera di un rapporto quasi sadomasochistico, di dover anche infierire sulla persona che ti fa il dono sublime di riconoscerti ancora la possibilità di avere un fascino corporeo. E questa è la cosa che sfugge al vecchio, che il vecchio può essere. Ma alla fine come ho trovato il mio vecchio? Cioè, io veramente mi ero offerto un risarcimento letterario, nel senso che avevo fatto il libro sulla Madonna, dove Giuseppe finalmente fa da maestro a Maria, la istruisce, la ama in silenzio. E lei dice: io credo che prima di affrontare il mondo ogni fanciulla dovrebbe vivere con un vecchio gigante per qualche tempo, eccetera. Alla fine ho trovato un vecchio perfetto, il vero, l'iniziatore, il maestro, il maschio madre, l'ho trovato, soltanto che aveva 20 anni, avevamo coetanei. Cioè, perché non è vero, a volte puoi trovare queste virtù straordinarie in uno che ha 20 anni ed ha intelletto d'amore, perché poi alla fine la speranza che noi abbiamo nei vecchi è questa, che ci vedano, perché noi non ci vede nessuno. Che almeno se ne rendano conto. Giovanni, buongiorno. Oh, salve. Allora, mi sentite? Certo. Ok, io avevo una bella storia da raccontarvi, ho un messaggio da lasciare a tutti i miei coetanei. Quanti anni? 64. Mm. Dunque, non beh sì, quasi, perché quasi dirsi vecchio ormai, diciamo la verità. No, ma sì, ma io mi sento giovane. E non disperate mai, perché dietro l'angolo può sempre esserci l'angelo che vi aspetta. A me è successa una storia bellissima. Beh, basta che non è quello con la falce in mano, perché c'è angelo e angelo. No, quella sì, bisogna fare toccamenti opportuni. niente. A lei quando l'ha trovato l'angelo? A che età l'ha trovato? Velocemente. Io 15 anni fa giravo per la Cina per lavoro e vedevo sui cartelloni questa bellissima ragazza nei negozi di abbigliamento cinese, la modella, bella come il sole, una ragazza cinese, dico sì, cinese, ma con tratti nordici, con tratti, come si chiama, mongoli. Non mongolo nel senso, no lo so, sono le più affascinanti modelle, cioè, quelle sembrano, che vengono oggi, sì, le modelle più quotate, più affascinanti, vengono proprio da una regione a confine fra la Cina, la Mongolia. Bravo, perfetto, e infatti siamo proprio lì. E vedevo sta fanciulla tutta nuda, con coperta solo dai capelli a coccolate. E si è attizzato come un beato chi ti conosce, beato chi ti ha. Morale, niente, 15 anni dopo ci ritorno per altri motivi. Faccio una foto nel parco e c'era sta ragazza che faceva stretching. Era quella lì proprio? Era quella, ma io non l'ho riconosciuta. Ma forse che somigliano, per noi occidentali somigliano un po' tutte le cinesi, magari è un'altra. Sì, ma questa era strana. Comunque niente, diventiamo amici, questa qui è una cosa incredibile. È più alta di me, esce con le scarpe basse per non farmi sentire in così a disagio. Non so, mi offre la cena, mi paga da sé. E perché secondo lei fa questo per lei? Non lo so, non l'ho capito, non me lo chiedo, ma è bellissimo. Vabbè, che importa, certo, giustamente. Finché dura, sì. Ben venga. Sì, tra l'altro lei è il ragazzo, è il boyfriend, si sposeranno. Le ah, quindi lei è un amante, non è nemmeno il compagno. Sì, perché lei mi ha detto, ma guarda, io se vuoi lo lascio, no? Perché no, no, non siamo pazzi. Mai. Questa cosa è bellissima. E, è bellissima perché mi prende la mano, andiamo fuori, mi prende il braccio. Ma questo dove accade, in Cina o qua in Italia? Cina. Ah, in Cina. Ah, beh. E, è una cosa incredibile. Quindi il messaggio è non lasciate mai la speranza, perché la vita riesce sempre a sorprendervi. Facciamo una situazione un po' paradossale, ai limiti, però. Lei che lavoro fa, per curiosità, Giovanni? Oh, io sono pensionato, la mia età, figuriamoci. Però faccio il coltivatore, Diciamo che non tutti i pensionati vanno a spasso per i parchi in Cina, quindi già ha avuto un'occasione rispetto a tanti altri che vanno agli ipermercati perché c'è l'aria condizionata. Comunque, succederà anche a loro, può succedere anche a loro. Cosa ne dici, Castellitto, di quest'ultima telefonata? Beh, insomma, il signore è abbastanza fortunato, tutto sommato, insomma, ha raccontato quasi una favola in qualche misura, non credo che sia sempre così. Poi magari dietro a tante storie ci sono tanti anche conflitti e tanti disagi. C'è anche la fortuna che è anche fidanzata, quindi non deve nemmeno sposare. È perfetto, infatti consiglio al signore di non, cioè la posizione più come dire, più comoda, una posizione più comoda di quella non la poteva trovare. Sì, sembra addirittura incredibile. Francesco, poi chiudiamo con Barbara Alberto. Francesco? Francesco? Pronto, se Francesco sono io, sì, pronto. È lei, è lei. Sono Francesco, 61 anni, avevo già detto lì. Il mio, la cosa che voglio raccontare è un po' diversa e forse a rovescio. Veloce che siamo in conclusione, Francesco. Nel senso che dopo la tragedia della morte di mia moglie, ho cercato di guardarmi in giro, ho avuto diverse opzioni. Proprio giovani di ragazze e non ho io i miei 69 anni li dimostro tutti e forse anche di più, però forse qualche cosa, che ne so, a livello di cultura. Beh, che ha scelto alla fine? Che ha scelto? Sono ancora due anni, sto da circa due anni con una ragazza di 27 anni, ma la lascio per una persona di 51 anni che vuole da me complicità per teatro, opera lirica, musica, eccetera. Si vede che ha attaccato al chiodo altre velleità e cerca la cinquantenne che cerca complicità e lascia la ventiseienne che cerca cose che lei non ha più voglia, non è più in grado, non ha più fantasia a poterle dare. Barbara Alberti, un saluto velocissimo, devo lasciare la linea. Se avete degli amori irregolari, state sì. State zitti, perché vedersi poi con gli occhi degli altri sciupa tutto, non si torna più indietro. Soprattutto se gli occhi poi, sono i miei, è ancora peggio. E corrisponde a una castrazione chimica di ogni passione. Grazie Sergio Castellitto, in bocca al lupo per il film. Grazie Barbara Alberti, a domani. Tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.